Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera a quanti ci ascoltano. Questa sera parliamo di commercio internazionale, uno degli elementi fondamentali della crescita economica. L'Italia è un grande paese esportatore, la sua economia ha tra i suoi punti principali l'export, e per fortuna negli ultimi anni l'export è andato abbastanza bene, ma l'export ha bisogno di comunicazioni, ha bisogno di strade, ma ha bisogno anche di regole, e di regole parliamo questa sera e lo facciamo con Sara Armella. Buonasera Sara Armella. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Sara Armella è avvocato, cassazionista, dottore di ricerca in diritto tributario, lavora appunto su questi temi, esperta di fiscalità nazionale e internazionale, e ha scritto un libro che si intitola Diritto doganale dell'Unione Europea, il codice doganale dell'Unione, la tutela degli operatori, i principi della WTO, dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e i rapporti internazionali. Ha una presentazione di Giuseppe Tesauro ed è edito da Egea. Allora Sara Armella, parlare di diritto doganale dell'Unione Europea è importante perché uno dei temi di fondo, uno dei primi passi dell'Unione Europea è stato quello di mettere insieme il mercato comune. Allora, esiste un diritto doganale che comprende tutti gli stati europei? Sì, esiste, è stato davvero uno dei primi obiettivi dei padri fondatori dell'Unione Europea, la creazione di un unico mercato, e ha rappresentato oggetto di più tappe, l'ultima delle quali è proprio questa del codice doganale dell'Unione, in vigore dallo scorso anno, che ha ulteriormente rafforzato il ruolo dell'Unione Europea, mettendo insieme e codificando una serie di regole comuni per tutti gli stati membri, in un momento decisivo per l'Europa. E quindi insomma, la scelta di mettere in campo questo nuovo strumento è funzionale ad un ulteriore rafforzamento della sinergia, della collaborazione delle autorità europee contro il contrabbando, contro tutte quelle forme di concorrenza sleale che colpiscono le imprese europee, in un momento in cui l'Europa sta discutendo molto su se stessa. Ecco, quindi possiamo dire che è una realtà acquisita il fatto che l'Europa sia un grande mercato comune, anche se in questo momento spirano un po' di arie protezionistiche anche all'interno dell'Unione Europea? Beh, insomma, i paesi stanno sempre più acquisendo consapevolezza di quanto agire sotto il cappello dell'Unione Europea li rafforzi nello scenario internazionale. Proprio in questi giorni la Commissione Europea ha diramato la sintesi del lavoro svolto nell'ultimo anno, in cui ha contrastato molte barriere protezionistiche poste da paesi terzi nei confronti degli esportatori europei. Rimanere sotto il cappello dell'Unione Europea significa quindi non soltanto avere maggiori strumenti di contrasto a delle pratiche protezionistiche, ma significa soprattutto ragionare in termini di sinergia, perché la rappresentanza europea, come primo mercato dei consumatori del mondo, ha una forza nello scenario internazionale che i singoli paesi non riescono ad avere. Ecco, però in questa prospettiva, al di fuori dell'Unione Europea si parla molto di protezionismo, vediamo le dichiarazioni continue, anche se poi seguono solo in parte dei fatti concreti del presidente americano Trump, ma anche all'interno dell'Unione Europea in fondo la logica della Brexit è stata quella di creare un nuovo protezionismo interno. Quindi in questo senso c'è un'ondata culturale di protezionismo all'interno del mondo come risposta alla crisi economica, però l'Europa come fa a dimostrare che un mercato unico è un grande vantaggio? Beh, intanto dice molto bene, la sfida della Brexit sarà davvero un primo terreno di confronto importante. Rispetto al soltanto a 2 mesi fa, quando è stata avviata la procedura per prevista dall'articolo 50 per l'abbandono del Regno Unito, abbiamo un'Inghilterra molto meno bellicosa, perché segnata dalle recenti vicende politiche, dalle recenti elezioni. Quello che doveva essere una hard Brexit molto probabilmente si tradurrà in qualcosa di meno forte, e probabilmente si ritiene che si andrà verso un'area di libero scambio, e quindi non verso una chiusura totale delle frontiere, ma un tenere aperte le frontiere con modalità diverse. Questo quantomeno è ciò che si aspetta l'Inghilterra. Diciamo che dopo i recenti movimenti politici di questa primavera, l'Europa esce rafforzata nella competizione con l'Inghilterra, l'elezione di Macron, gli sviluppi, i dati anche economici del Regno Unito non sono favorevoli, la chiusura di molte agenzie europee che lasceranno il Regno Unito e portando con loro diverse aziende multinazionali, diverse compagnie che hanno base a Londra. Insomma, tutto questo ci dà l'idea di uno scenario in cui il ritorno delle frontiere non sembra essere utile per chi le sta rialzando. Ecco, in questo senso la prospettiva che ha l'amministrazione americana è particolarmente importante, e ci si chiede se le regole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, della WTO, potranno essere utili per contrastare un eccesso di protezionismo. Funziona questa Organizzazione Mondiale del Commercio? Beh, l'Organizzazione Mondiale del Commercio è stata veramente dal mio punto di vista è stato uno strumento davvero formidabile per ricomporre nelle aule di giustizia, nelle aule arbitrali, quelli che per anni sono stati dei conflitti commerciali internazionali molto pesanti, con embarghi, con misure di contrasto molto forte che danneggiavano spesso poi anche popolazioni. Valeva un po' il detto tradizionale: dove non passano le merci passano gli eserciti. Il WTO ha avuto il merito, all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, di ricomporre le tensioni commerciali internazionali sotto l'egida di una visione comune, con alcune regole comuni. Addirittura poi il WTO ha fatto molti passi avanti, perché ha affermato un principio democratico dove gli Stati Uniti non hanno più un potere di veto, ma vale invece il principio della maggioranza. Hanno garantito il progresso di molte popolazioni che hanno abbandonato lo stato di estrema povertà proprio grazie alle aperture che si sono realizzate attraverso la riduzione dei dazi doganali e forme anche di tutela e di sussidio agli stati che adottavano misure di tutela dei lavoratori o di passaggio verso forme democratiche di rappresentanza. Insomma, il WTO ha avuto tanti meriti, ovviamente ha avuto anche tanti punti negativi. Lo ricordiamo tutti, dopo il Doha Round non si è più riuscito ad affermare un negoziato multilaterale che portasse avanti i ragionamenti e la costruzione del WTO. Oggi gli Stati Uniti mettono in discussione queste regole riaffermando un principio di sovranità. Nessuno può dire al governo americano cosa deve fare, no? Vuole essere legibus solutus. Però questo evidentemente rappresenta, dal punto di vista di tutti noi, un passo indietro, perché avere delle regole condivise, quantomeno delle regole basilari, rappresenta tutela per le aziende che operano correttamente. Ecco, tra l'altro gli Stati Uniti hanno deciso di bloccare ogni negoziato sul trattato transatlantico, anche questo in fondo è un passo indietro, e forse è una di quelle realtà in cui non si ha la percezione che si guadagnano entrambi, avrebbero guadagnato entrambi i contendenti. Forse il commercio internazionale ha questo aspetto, è una realtà win-win, e questo forse va sottolineato. Sì, dice molto bene. Noi pensiamo che soltanto 2 anni fa le opinioni pubbliche europee scendevano in piazza contro un nuovo trattato che si stava profilando nei rapporti con gli Stati Uniti, ritenendo che potesse contrastare così le tradizioni europee su tanti temi legati al consumo, per esempio, e alla protezione delle produzioni locali. Oggi invece ci troviamo in uno scenario completamente opposto. Ci rendiamo conto come quell'occasione persa sia stata invece un momento in cui non si sono realizzati alcuni importanti obiettivi, per esempio proprio quello di garantire una serie di regole di protezioni alle industrie europee quando si muovono in uno scenario così complesso come quello degli Stati Uniti. Non è inutile fare ragionamenti di questo tipo, cercare di divulgare, come stiamo facendo di fare anche con questo libro, i temi legati al diritto doganale, perché non sono temi ostici o tecnici, riguardano veramente la vita delle imprese, dei consumatori e in buona sostanza proprio anche quelle che sono le prospettive future della nostra vita economica. Ecco, questo è importante, lo sottolinea Giuseppe Tesauro nell'introduzione del libro, che è un libro appunto importante per lo studioso, l'operatore, il legislatore, il giudice, per coloro che devono applicare il diritto, ma anche per coloro che devono conoscere. In fondo, su questo fronte, per concludere, Sara Armella, possiamo dire che c'è un po' di disinformazione, molti pregiudizi anche su questi accordi commerciali, molte polemiche basate anche su realtà di fatto che sono inconsistenti. Sì, condivido. Credo che sia molto positivo che l'opinione pubblica inizi a discutere di questi temi. Penso però altrettanto che sarebbe opportuno che lo facesse in maniera informata, andando a leggere nel dettaglio gli scenari, come nascono certe situazioni, perché si sono sviluppate, quali conseguenze positive e negative possono avere determinati accordi. Questo perché è molto importante essere consapevoli, fare sentire la propria voce senza pregiudizi. Ecco, un'ultima domanda, quasi una curiosità. Si è parlato spesso negli anni passati del contrabbando, i contrabbandieri, queste mitiche figure che passavano le frontiere sui sentieri di montagna con le gerle come di sigaretta. Chi sono i contrabbandieri di oggi? I contrabbandieri di oggi usano un po' quegli strumenti e un po' strumenti adeguati ai tempi, più sofisticati. Ma ci sono ancora il contrabbando, assolutamente oggetto di convenzioni anche internazionali che stanno ragionando su come trovare delle efficaci misure di contrasto a strumenti sempre più evoluti, che sono fatti di transazioni monetarie internazionali con paradisi fiscali molto molto opachi, che sono fatti ovviamente di facilità nello scambio di merci nelle zone franche dove si annidano addirittura delle enclavi di extraterritorialità. In molte zone franche del mondo non esistono leggi e questo fa sì che siano veramente usate per ragioni di contrabbando, per ragioni di violazione della proprietà intellettuale, per ragioni di violazione del presidio a tutela dei consumatori. Quindi certo, ci sono delle formule nuove. Ecco, il mondo è cambiato, è diventato un mondo più complesso, certamente anche con nuovi strumenti, anche di questi strumenti informatici e non si usa ormai anche per violare molte leggi. Grazie a Sara Armella per essere stata con noi questa sera, per aver aperto questa finestra sul commercio e sul diritto internazionale sulla base del suo libro Diritto doganale dell'Unione Europea, edito da Egea. Sono 448 pagine per 60 euro. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, grazie a Peter Bescapè in regia, a Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagina è per sabato prossimo.